24 Mattino di Alessandro Milan. Nel mio lavoro non chiedo mai il perché, le domande che faccio riguardano il quando, il dove qualche volta, ma sempre il quanto. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul of faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made damn sure that Pilate washed his hands and sealed his face. Pleased to meet you, hope you guess my name. 3 italiani su 4 sono favorevoli alla cittadinanza di coloro i quali nascono in Italia. È chiaro che questo fa venire l'orticaria ad alcuni quali hanno impostato tutta la loro politica, tutto il loro, la loro richiesta di consenso sul contrario. La sinistra evidentemente ha bisogno o di nuovi elettori o di nuovi schiavi da sfruttare o di nuovi iscritti ai sindacati, e quindi pensa di regalare cittadinanza e diritto di voto. In Veneto, se scioperassero tutti le badanti, i lavoranti degli altri paesi, il Veneto andrebbe in tilt immediatamente. Questo ce lo dimentichiamo sempre. Quando ci servono li facciamo lavorare, e quando devono avere la cittadinanza, no, guai, guai. Siamo veramente all'età del bronzo, della civiltà. Stiamo parlando di bambini e ci chiediamo perché bambini nati qua, che conoscono l'italiano, non debbano avere gli stessi diritti dei nostri figli. Per questo avanti con lo Ius Soli. Il Partito Democratico è l'unico partito realmente razzista presente in Parlamento in questo momento. Ragazzi, si è caricato di un filino di retorica questo dibattito sullo Ius Soli, un filino, giusto quel pelo di retorica. Come dice il nostro Mauro Corona, l'avete riconosciuto anche il nostro scrittore preferito Mauro Corona, che dice: vi piace, no? Quando dobbiamo mangiare le cose, quando ci servono perché devono lavorare, devono fare i badanti, devono fare... allora ci piacciono gli immigrati, gli stranieri. Che poi il dibattito non è sull'immigrazione, ma sul dare la cittadinanza in maniera più snella ai figli degli immigrati. Ma... si è perso il senso, basta, c'è la deriva, per cui ho intercettato questo tweet anche di Alessandro Gassman, su cui oggi Cruciani ci scrive qualcosa sul Libero anche, no? Gassman che risponde a un ascoltatore sugli immigrati e lui dice: te piacciono i pomodori, le verdure, le fragole? Senza di loro scordateli. Che tradotto è? Cioè, ci servono per raccogliere i pomodori? Ci servono per raccogliere l'uva? Gassman, insomma, anche per te un po' di sinistra, questa è un po' una scivolata, Non è che gli immigrati servono per raccogliere le fragole. E teatro. Un pochino, caro presidente De Luca, un pochino sì, teatrino. Tutto è finzione. Adesso tutto... insomma, diciamo che si carica tutto un po' di... come dire, di esagerazioni, di luoghi comuni. Però, insomma, va bene, ti piacciono le fragole, ti piacciono i pomodori, scrive Gassman a uno su Twitter. E allora, senza ma gli questo di che sta parlando? No, ma cioè, sta scrivendo al limite, caro presidente De Luca. Siamo pronti, Con la versione 4.0 è tutto a posto. Tutti i file di De Luca sono messi lì tranquillamente, non c'è neanche più bisogno di invitarlo, direttamente conduce lui, pezzettini qua e là. E adesso. Eccolo qua, no, visto che non siamo coi luoghi comuni, arriva un bel messaggio. Facciamo che un po' di extracomunitari li mandiamo a casa di voi di Radio 24. Oh, grazie caro ascoltatore, mancava questa profonda riflessione sul tema immigrazione. Dobbiamo ospitarli a casa. Caro Lorenzo Nespoli, preparati, perché casa tua è grandissima, una reggia praticamente, può tenerne almeno 7-8. Lui di nazionalità li preferisce africani, diciamo, dal continente africano. Mentre Paolo Corleoni in regia è pronto ad aprire la sua dimora, lui li preferisce di religione musulmana, se possibile, e dal Nord Africa così. E anch'io ovviamente la mia magione, con il mio castello, con tutte la mia servitù che li accoglierà. Io sono disposto ad accogliere almeno 25, perché è una casa discretamente grande. Io li preferirei induisti, così, perché voglio approfondire un po' la loro cultura. Alle 6:33 minuti. Allora, signori, controllami subito Lorenzo, perché dicono che a Marzocchino ci sono 24 gradi. Ma Chiara da Perth è tornata, 20 gradi e variabile. Dice no, dice a me è bentornato, effettivamente. Senti già che ci sei, 22 gradi a Guardamiglio. Ti sto un po' mandando in tilt. Marzocchino Lucca e Guardamiglio, ci sono 22 gradi, almeno ci dico un ascoltatore. Da Tallinn, tempo bello a Tallinn. Lodi, Guardamiglio, Lodi. Va bene. Ariad, signori, 39 gradi, umidità, quindi 39 gradi e noi ci lamentiamo. Marco ci fa sapere. 21 gradi e sole a Verona. 24 gradi in tangenziale est a Milano, il nostro Antonello come sempre è lì. A Gardone Valtrompi a 19 gradi, Pietro, grazie. Mentre ad Avignone 16 gradi, a Casei Cerola 20 gradi, sulla 7. Vale. Signori, voglio salutare una signora che è quasi in trionfo. Hanno veramente sbaragliato ogni concorrenza, a cominciare dal marito. Aurora Lussana, buongiorno. Buongiorno Milan. Sentite che voce tronfia, voglio subito presentarti il direttore di oggi, Umberto Brindani, perché tu Umberto non sai cosa è successo. Buongiorno direttore. Buongiorno. La Lega non ha vinto a Cantù, ma per un pelino, e vincerà sicuramente il ballottaggio, e uno dei più votati è stato il marito. Sentila come gonga. Il marito Nicola Molteni, che quindi è parlamentare, ma vuole un'altra cadrega. Vuole anche quella di consigliere comunale. Una poltrona non gli basta, ne vuole due. Due stipendi, due vitalizi, due auto blu, e via. Brindani, due mogli no, però. Due mogli no. No, che no. Abbiamo sfiorato la vittoria per 100 voti, non abbiamo vinto a Cantù. E rischiate di perdere il ballottaggio. Guarda, ma la Madonna di Fatima è con noi, adesso c'è il ballottaggio il 25 e vediamo cosa succede. Sì, no, è stato Brindani, Brindani, c'è la Madonna di Fatima, quindi ormai è venuta la Madonna di Fatima, Cantù, certo. Sì, certo. Quindi ormai è vittoria certa. Cosa si può dinastia politica come i Kennedy ormai. sì, esatto, i Molteni accanto. I Molteni. Che poi lì non si chiamano tutti i Molteni. No, è andata bene, Milan, è andata bene. Te devi venire a Cantù anche te in pellegrinaggio, perché a fare cosa? A quando ritornerà un feudo del, hai visto che il centrodestra unito, hai visto? Che meraviglia. Cioè, cosa volete fare? La Repubblica di Cantù? Ma non lo so, di sti tempi non so se la Repubblica va bene anche un ducato, va bene un principato di Cantù, va bene. Dai, apriamo il Parlamento. Insomma, è stato un gran trionfo a Cantù per la Lega e per Nicola Molteni. Non sono però bei tempi, Brindani, Certo, ieri ho visto questo tweet di Ivan Scalfarotto, no, del governo, a dire: avete visto quello che è successo a Londra, no? Dove un padre di famiglia gallese, quattro figli, uno normale, giudicato normale, poi si è scagliato con un van contro alcuni musulmani, proprio pare dicendo: uccido tutti i musulmani, voglio fare la mia parte, eccetera. È stato salvato, caro direttore, dal linciaggio, dall'imam, che ha fermato le persone e l'ha consegnata alla polizia. E giustamente Ivan Scalfarotto dice: è una bella azione, voglio proprio sentire i luoghi comuni in questo caso, eh? Cioè, sembra un'azione terribile, ovviamente, che però ribalta un po' di luoghi comuni ai quali ci eravamo abituati, o no? Beh, sì, assolutamente. È chiaro che stiamo vivendo tempi complicati, però guardiamo quello che succede adesso, quello che succede a Parigi, quello che succede appunto a Londra. Per fortuna da noi al momento non ci sono questi segnali. È stato, anzi, intanto ieri è stato arrestato un personaggio dell'ISIS, o comunque che farebbe capo all'ISIS, a Crotone. Però, insomma, tenendo le dita incrociate, da noi siamo ancora soltanto alle parole. Cerchiamo di non esagerare con le parole, no? Perché poi dalle parole si passa ai fatti. Questo. Sì. Veramente terribile questa scena. Cioè, l'idea è: cara Aurora, devi dire qualcosa a te. Non dimentichiamo, ieri a Parigi c'è stata anche un'autobomba sventata. Sì, terribile. Sì, l'hanno ucciso il jihadista a Parigi. Che diciamo a questo padre di famiglia che pensava di farsi giustizia con una macchina? Squilibrato totale. No, però, allora, hai ragione te. Cioè, io odio il luogo comunismo in generale. C'è proprio una roba che non sopporto. Però guarda che ci aveva raccontato i tuoi amici di sinistra, sì, che queste grandi capitali europee, Parigi, Londra, no? Sì, soprattutto, sì, queste città aperte al mondo, queste città dove convivono, no, molte culture, molte razze, ecco, sono falliti quei modelli lì, giusto? Mm. Adesso dal multirazzismo siamo passati... Ah no, vedi che... No, ecco, siamo passati dal multi... Chi l'ha detto? No, prima erano città multirazziali, adesso sono città multirazziste. Nel senso che siamo... Ma chi l'ha detto che sono falliti queste? Dove dovresti vivere tu, in un mondo chiuso? Ma te vivresti a Londra, a Parigi, in quei momenti qui? Ma sì! Che c'hai paura di andare in chiesa, c'hai paura di andare in moschia, ci avevano detto... Ho capito, cosa dovrebbero fare tutti i milioni di cittadini di Londra andarsene? Cioè, dovremmo pensare che delle società dove noi adesso abbiamo sradicato la gente dai loro paesi, dalla loro cultura, dalla loro vita. Ma sì, questa cultura dello stato borghese, spostiamo le persone come merci, ma guarda che abbiamo disumanizzato l'anima dell'Europa. Adesso ci abbiamo veramente... Ma tu cosa vorresti? Il mondo coi muri dove ognuno vive? Ascolta, i canturini solo coi canturini? La diva del Pelide Achille, l'Iliade, te l'hanno fatto entrare nel cavallo di Troia, però hanno cercato di resistere dopo a Troia prima che bruciasse. Sì. No, adesso noi facciamo entrare il cavallo di Troia, poi siamo qui, gli diamo anche la cittadinanza, va bene? Come se avessero da pagliare... I troiani davano la cittadinanza che sono entrati a bruciare. Direttore, Troia, aiutami tu, cosa dovremmo fare dei mondi con delle piccole enclave? No, lo ius sanguinis funziona. Eccola, perché lo ius sanguinis è una cosa bella. No, tu sei qui, nasci qui dopo 18 anni, anche perché la cittadinanza serve solo a una roba, Milan, solo a una roba, lo status di cittadinanza, a garantirti un solo diritto, non il diritto alla salute, non il diritto all'istruzione, non il diritto ad avere una casa, il diritto a votare. A votare. Quindi servono nuovi elettori. Perché tu dimmi un bambino, allora, che ci sia che ci sia che ci sia un tempismo sbagliato anche su questa legge dello ius soli, sono il primo a dirlo. Mi ha un po' infastidito questa idea che adesso bisogna fare questa legge in fretta e furia, anche se se ne parla da un bel po' di tempo. Ma il solito format dei bambini, ho capito, no? Ma tu hai capito, Brindani, che mondo vuole la Lussana? Non so, no, guarda, libero, soprattutto di spostarsi per le persone, per fare città multiculturali. Certo. No, perché io voglio le frontiere con le porte, si aprono e si chiudono, Milan. Quando va tutto bene la porta la lascio aperta, quando c'è fuori qualcuno da casa non va bene la chiudo. Va bene, chiudiamo le frontiere. Brindani. Comunque, a parte che si parla di questa legge da 13 anni, magari il tempismo è sbagliato, però 13 anni sono 13 anni, ma Io non capisco una cosa e vorrei che Aurora me la spiegasse: perché c'è questa confusione tra il problema degli immigrati, dei migranti, dei profughi e i bambini, e i bambini che sono nati in Italia? Cioè, stiamo parlando di persone minori, no? Che sono nate in Italia, che hanno fatto le scuole, che parlano italiano, che parlano, aspetta, fammi finire. Che parlano italiano, sì, come me, come te, forse meglio di me, di te, che fanno le scuole e non, che fanno parte delle nostre nazionali sportive, che ci rappresentano in giro per il mondo. Allora non si capisce perché queste persone, questi ragazzi, questi bambini non debbano avere la cittadinanza italiana. E soprattutto non si capisce cosa c'entra questo problema della cittadinanza dello Ius Soli con il problema dei migranti. Io quando sento dire che l'Italia così diventerà la sala parto dell'Europa, ci sono già migliaia, centinaia di migliaia di bambini che sono di fatto italiani, nati in Italia appunto, che parlano italiano anche se hanno la pelle scura, gli occhi a mandorla. Negare loro la cittadinanza è razzismo, Aurora. Si chiama razzismo perché hanno il colore diverso dalla pelle, per il resto non hanno niente di diverso da me e da te. Allora perché negargli la cittadinanza? Non lo so. Aurora, sei svenuta. Guarda, quella roba di colore della pelle, è proprio una roba che non mi appartiene. Sono italiani, sono nati in Italia. Perché creiamo una cittadinanza a geometria variabile? Perché noi ci troveremo dei figli che hanno la cittadinanza italiana e i genitori che magari sono qua da 20 anni, che non l'hanno mai chiesto, magari sono orgogliosamente egiziani piuttosto che cinesi, piuttosto che marocchini. Perché anche questa italianizzazione forzata, questo mito che per forza non sono appunto così le società, quelle delle seconde generazioni, le terze generazioni. Sì, allora, io non ho chiesto di essere cittadino italiano. Io non ho chiesto. Sei nato da genitori italiani. C'è lo ius sanguinis. Ma il discorso è questo qua. Allora, è giusto, secondo me, una legge come lo ius sanguinis, che è sacrosanta. Cioè, noi, grazie a Dio, garantiamo a tutti i bambini che nascono. Lei vuole in Italia, lo ius sanguinis, il diritto sul sangue. I genitori italiani danno razza italiana, i genitori stranieri non danno razza straniera quando si accoppiano. Allora, cioè, non danno razza italiana. Se oggi a Milano nasce un bambino da due genitori marocchini, non gode di tutti i diritti della mia bambina che è cittadina italiana, di la verità. Sì, ma se nasce, io un giorno te li presento, cito sempre i miei amici cinesi, tu lo vedi su Facebook quando metto, che hanno i figli nati in Italia, che parlano ormai il milanese, neanche l'italiano, sì. Vanno a scuola in Italia, saranno andati in Cina una volta, ma sono italiani, sono italiani. Ma perché i genitori non chiedono la cittadinanza? Noi abbiamo qui tanti immigrati. A parte che l'hanno chiesta e ce l'hanno pure. Sì, dopo 10 anni regolarmente puoi diventare cittadino italiano, giusto? Poi i figli qui automaticamente diventano cittadini. Brindani, lo vuole ma con un po' di difficoltà. Buttargli anche un po' degli ostacoli, fagli un po' degli sgambettini ogni tanto. Se no, dici Umberto cosa... Io voglio lo ius prime noctis, quello... l'unico ius hai capito il Brindani, hai capito bei tempi quelli lì, le robe funzionavano, bei tempi. Ma la Lussana vuol tornare al Medioevo, secondo me. Entriamo a casa di Aurora Lussana, è tutto buio con delle alabarde che spuntano agli angoli, la mia cara amica è una medievista famosa, c'hai le torce quelle a olio, negli antri scuri. Il Medioevo ha conservato tutta la cultura classica, il nome della rosa, guarda che se ci abbiamo vedi, quando il Molteni va a Roma si mette la cintura di castità, è tutta cosa così, d'altra parte fa parte dell'iconografia della Lega, la Lega, grandissimi difensori sempre dell'italianità e della bandiera tricolore, la Lega. Ho un'idea. Allora, vuoi diventare cittadino italiano? Sì. Devi fare il corso di Lombardo per Baluba. Ti ricordi quel libro lì? Oh, mamma mia, ragazzi. L'ha mai letto? Dai, andiamo al traffico, me lo racconti tra un attimo. Faircam Logistics, gli specialisti per la tua supply chain. Scopri di più su faircam.com. Vi presenta... donna, donna, rumma. Ale, altro che 5 milioni in 5 anni. Se me li danno i 50 ci vado io in porta. Ci sono decine di migliaia di bambini adottabili in Italia e decine di migliaia di coppie che vorrebbero adottarli. Piantiamola con questa retorica del piuttosto che tenerli in una casa. Milan, ma sei andato con David Guetta? Alla tua età ancora che ascolti la musica che fa punz, punz, punz. Ma basta, ma ascolta della musica seria. Io sono del sud, sono di Napoli. Faccio parte di quella parte d'Italia che la Lega diceva Vesuvio lavali col fuoco. Non ho a nessuna intenzione di far parte di un movimento che si allea con la Lega Nord. Parole di Di Maio. Di Maio, cara Aurora Lussana, caro Umberto. Non sa leggere le mail, vabbè. Tra l'altro avremo il tuo segretario Salvini ospite alle 9. Ma non Salvini stamattina? Sì, lo so. Sei tutta emozionata. Sì, poi c'è anche uno che è stato il mio professore. Sì, Bassani, professor sì, Bassani. Sì, a scienze politiche. Allievo sì, di Miglio. Sì, praticamente ci siamo trasformati in Radio Padania, Brindani, fai qualcosa tu oggi. Ma il Brindani è per lo Ius Soli, l'Umberto, lì, l'Umberto, dai, è l'Umberto. No, uno... però glielo voglio chiedere al direttore. Direttore, lei mi dice quale diritto noi diamo a un bambino se non garantiamo a questo bambino lo status di cittadino italiano? Voglio saperlo. Dai, Brindani, che domani iniziano gli esami di maturità. No, forza, candidato Brindani. Brindani, tu sei cittadino italiano, che diritto hai in più di un cittadino italiano? Vabbè, fagli rispondere però. Fallo rispondere. Allora, se tu parli del diritto di voto, che voi avete terrore di questi centinaia di migliaia di nuovi cittadini, non beh, è vero? Un po' sì, non li vedo molto che votano la Lega. No, ragazzi, tra l'altro su questo tema io devo dire è una notizia drammatica, quindi non c'è niente da ridere, ma io quando l'ho vista non ci credevo. Allora, succede, il Messaggero racconta questa storia, il Messaggero. Sentite bene cosa dico, non si veste all'occidentale, avete capito bene? Picchiata dal marito islamico che voleva, esigeva che la moglie si vestisse in tacchi a spillo, gonna e lasciasse gli abiti musulmani. Ma qua guarda il delirio, te l'ho detto. Brindani è il contrario di solito. Non si capisce più nulla. Pretendeva qualsiasi cosa, gonna. Corte, tacchi a spillo, cioè la voleva vestita all'occidentale. E magari voleva anche che coltarello della polenta gli preparasse un po' di polenta d'arancia. No, non lo so, non si capisce più. Finita. Di Maio ne ha detta un'altra fortissima oltre a quella che hai fatto dire. Cioè? Sì, ha detto: noi siamo un movimento post ideologico. E fra di noi c'è chi si ispira a Berlinguer e chi ad Almirante. Sì, è vero. Non c'è più la destra, non c'è più la sinistra. Dovremo tirare fuori una bella rubrica su Di Maio, perché insomma con le rubriche che abbiamo c'è anche questa. Comunque sì, per rispondere all'ascoltatore, sono andato a vedere David Guetta a Ibiza, non lo so, perché a me piace. Ma infatti, ma vedete, bello. Vedete, cioè non so, Brindani. Io sono più d'amico, no, che da Ibiza, Guetta, però hai presente Guetta? Sì. Guetta. Certo. Guetta, quello 180.000 euro all'ora prende per mettersi una chiavetta pum pum pum. Pum pum pum. M'han detto, giuro, me l'hanno detto, che una volta è andata a un capodanno, ha dimenticato la chiavetta e è saltato il capodanno. Tutto pagato magari, 600.000 euro per suonare un concerto a capodanno, ha dimenticato la chiavetta, quella con tutti i pezzi. Ma non vai a vedere Vasco Rossi, quindi? No, non vado a vedere Vasco Rossi. Pum, pum, pum. No, sono andato anche a vedere Vasco Rossi in vita mia, ma insomma abbiamo qua già Elisabetta Fusconi in redazione, che credo non abbia